l'unica sempre cosa da un uno, vabbè, comunque ho cambiato quella, ho cambiato, come si chiama, il fusibile, non di quelli lunghi però, di quelli rotondi, e il televisore ripreso a funzionare. Quindi la sua argomentazione era sulla seconda parte dello switch del primario. Di preciso ti parlo di qualche anno fa, l'ho fatto, non mi ricordo di preciso ovvero. Comunque era vicino praticamente al come si chiama? È lì dove c'è il fusibile, là, quella zona lì. Dopo il filtro, prima del trasformatore, prima che il trasformatore, capito? Sì, cos'è un Samsung? Yes! Ha capito tutto, serie 3. Ma era piccolo, un 22 pollici, Sì, no, è diventato della serie 3. Te lo dico perché è molto amico di chi ha la Samsung ufficiale ad Olbia, capito? Da parecchi così trovate i tassi. Mentre ho capito che da queste parti chi ha Samsung ti fa direttamente impiantare la scheda, cioè ti cambia la scheda e niente. Dunque sono 80 più la di scheda e più una roppera per queste cose qua di solito. Invece Maurizio si mette lì, si misura tutto, quando si rompe le palle qualche pezzo da me a fare, giusto perché magari ne ha troppo, ne ha davvero tanto di lavoro. Cosa che dice che i riparatori stanno facendo la fame, però i riparatori quelli bravi, chi sa veramente lavorare, cioè non ha mai smesso di lavorare, io ho visto questo. Certo, no, già è bello, là. Quando c'è da uscire di testa non mi piace più, no. Poi ci vogliono gli attrezzi adatti, non è avere un test assolutamente. Non è semplice. Se non vedi il danno, ma comunque ne ho riparato tanti televisori, condensatori, qualche diodo, niente. È così. L'elettronica è una cosa complicata, è una cosa strana, la cosa elettronica è una cosa strana. Guarda, se parli di un diodo ti posso dire che c'era questo alimentatore che funzionava, andava benissimo, un TV un 32 mi sa, un 32, sì, forse un 32, funzionava, andava benissimo, però così, mi passava per la testa di non uscire dallo stand-by, se non usciva dallo stand-by si inchiodava, attaccavi la spina, dovevi attaccarmi, dopo due giorni ripetivi la spina, funzionava perfettamente, senza problemi, usciva dallo stand-by, dallo stand-by, tranquillo, senza problemi, indovina cos'era? Un diodo, era semplicemente un diodo, non si capisce per quale motivo, però io misurato per la centesima volta, perché ci fu un rientro di questo apparecchio, no? Il laboratorio, misurato per la centesima volta, per caso, così, partiamo da capo, dai, i fondamentali, io partiamo dall'alimentazione, perché addirittura sembrava che fosse la scheda, la main, che non prendeva, perché l'alimentatore sembrava perfetta la lente di tensione, capito? E niente, questo diodo ogni tanto decideva di farsi cavoli suoi, io l'ho trovato in corsa, figurati, il barco, il giorno dopo, funzionava, scaldata appena con l'accendino, andava in corsa. Sì, d'accordo. Ma non posso immaginare, guarda, essere di cura, ti faccio ridere. Mi hanno regalato un televisore, e questo televisore io l'ho aperto, le schede nuove di pacca, non c'aveva nessuna anomalia, controllato tutto quanto, e pensavo forse il tastino, no? Nulla, vabbè, ho misurato anche il LED del tastino lì, l'accensione, era apposta, accendevo, e niente, l'ho cavato a piede, chiuso. Poi l'ho riaperto, l'ho fatto nulla, l'ho richiuso, poi sono passati un po' di giorni, forse qualche mese. Praticamente ho detto, ci riprovo un'altra volta. Cosa faccio? Prendo e c'erano in serie quattro diodi. Quindi dicevo, questi quattro diodi, aiutato da un amico la vita. Questi quattro diodi ce n'era uno che era praticamente andato. Il cambio il diodo. Attacco la spina, puff, al primo colpo, sta sempre funzionando. Quelle cose che ti fanno perdere la testa. E questo Dio lo pensa tu, quando tu scaldavi un pochino, andava in corsa, mi sedava anche col caso. Lo raffreddavi, lo lasciavi un po' lì, dopo un po' di passavi col testo, poi è rimasto il laboratorio come esempio di rottura di balle, quel Dio accanto al piedino della lampada, è rimasto lì a guardartelo più di 3 volte. Ma ho sentito un greco. Sì, adesso lo facciamo entrare. Vabbè, comunque niente, ho sceso a casa della mia ragazza, un Samsung 22 o 24 pollici. Funziona che è una bellezza, guarda. Avanti, buon po'. Via, buonasera, sto provando il ricordo di 4.000, quello che mi ha sistemato Fabio. Come sto uscendo? Hai capito, quel 4.000, eh? Va bene. Da me sì, cos'è il Corvus 4.000? Esatto, sì. Perfetto. Via, d'accordo. Adesso devo... sono entrato... adesso salito su. Allora, cioè, a prendere roba per mangiare per Gianfiero, più che altro. Perché sono entrato, c'era un lago, Fabio, mamma mia. Tutta la mia intera casa nella camera sua, è esploso, come si chiama, la sacca. Ho dovuto raccogliere tutta la mia. Cazzo che gli è la minchia, un travaglio è lei, un travaglio, vanno puro. Ascolti, volevo chiedere, ma come sta ricevendo l'apparecchio? Sì, già riceve bene la vetta, devo diminuire la parte dello smith di ricezione, e in trasmissione va bene la vetta, va bene anche così, solo ricezione. Se mi faccio le regolazioni ogni mattina, se entri, così... mi faccio la comparazione da uno all'altro e sono a posto. Intanto il prendi 9,25 già non lo ricordo, quindi a un certo punto già sono a posto. 5 di B devo scendere. Antonio, io le regolazioni non ce l'ho toccate. Quando ho visto che stava ricevendo bene, che c'era quella cazzo di lenticchietta maledetta, come ho visto che stava ricevendo, niente, ti ho abbassato avanti io la potenza di uscita. L'hai visto il film, L'ho pensato adesso, guarda, perché sono adesso a casa per fare un panino a Giampiero, che ancora Giovanna non è entrata, figurati tu. Quindi stasera non so se rientra a mezzanotte, vabbè, al limite già riprendo la... mi piace il 2009 giù, mi installo e almeno parlo un pochettino e mi faccio compagnia. Ho fatto anche questo, così io con l'Audi, l'inter scalda, capito? Cioè, gli fai una bella prova, perché io come ho visto che stava andando, ho dato portante, ho visto che è riuscito abbastanza bene, lo subimento sembrava quello regolare, e niente, ti ho abbassato appena il trimmer della M, te lo ricordo un'altra volta, dietro per il sistema dei componenti vitri da dentro. Certo, se no come detto va per dolore. Siamo a posto, stai uscendo benissimo secondo me, ma se tu mi dici che riceve anche bene, e allora veramente a parecchio di sotto, cazzo di ironia. Rosso, te l'ho detto qua, io sono uscito in testa, tutto. Poi quel pezzo lì ho detto, cazzo scalda lì e non riesco a capire cosa cazzo c'è. Però si vedeva da fanculo, capito, in pratica. Non riuscivo a capire cosa cazzo è. Adesso l'ultimo problema è quello del mio, quel cavo di lineare. Che lo sai. Quello là, quello lo sistemiamo bene e poi già ci divertiamo con la canna a pesca. Hai capito Luca, ormai non c'è più la testa, c'è la canna a pesca. Ah, Lucia. Tu la canna da pesca serve e tu sei fissato che ti serve solo l'antenna, ma cosa cazzo te ne fai, figa, antiquato. Io ci sono provato a 5. Non serve un cazzo, dove poi canna da pesca, palanchi, reti, capito, così. Mio. Oh, e la canna. Dai Marco, tu sì che mi cambi il nervo. Vabbè, gente mala. Io, stai dicendo a me. Ciao Marco. Marco! Salve gente. Ero collassato qua. qua sul divano con lo smartphone, c'è un volume bassissimo, tanto che quasi non vi sentivo. Ho alzato appena, ho visto che c'era tutta la cricca, dai. Infatti, vabbè, aspetta che scendo giù, andrò a mangiare mio fratello e già riprendo con la... vabbè, mi sento essere più basso, la verità. Attacco il terminale di Giovanna. Ci stiamo fra due minuti. Se poi scendo le scale, se non ammazzo, comunque salirò su. Ma cioè, fatta più 4.000 che lo provi, se no non sappiamo se gira bene. E vabbè, non so se ce la fa quella limitata, la verità, a tenerlo, quindi... Se vuoi mi porto questo qui, non è quello il problema. Vabbè, tutto il 4.000 di Marco, va. L'aggancio con la magnetica e vediamo come esce. Quindi a fare così così vediamo anche quel condizione che scalda molto, però lasciagli quel trimmer così per adesso, anche perché non sai perché non hai lì, lo smitter non è ancora atterrato, perciò non ti puoi neanche regolare con le SVR, con, capito? Usalo, fallo girare e vediamo come va. D'accordo, se non scendo giù là. Che migliorie avete fatto? Niente, ma con una roccia che non hai idea. Al 4.000 ecco, famoso, e cosa potrebbe essere? Niente, a un certo punto stava parlando, però ero tranquillo, mentre stava parlando ha visto lo smitter che è andato giù, così, se ne è sceso da solo, e poi l'incensione, non sentiva più niente, sentiva il QRM basso basso, i segnali che prendeva 9 erano 2, 3, capito, così. Ma controlla questo, controlla quello, fuga lì, allora ci sono fatto la catena, avete lui che ha messo un po' male, toccato, minchia, mi sto uscendo di testa, siccome dai tempi che furono i miei apparecchi li faccio Mattonello e i suoi apparecchi li facevo io, gli ho detto a Fatone, dovete ci copetti, portamelo che non lo guardo io. Tutta la catena delle rete, ho guardato, tutti i transistorini, tutti misurati, controllati, ripiazzati, le resistenze. A un certo punto mi è venuto il dubbio che potesse essere la LC, perché se è LC non sarei riguardato, è normale che non stiamo ricevendo e che comunque c'è qualcosa nell'LC che vi sta chiudendo anche l'uscita, no? Così come può essere normale, perché se la LC lì si chiude o magari si butta in corto su una porta di tubo integrativo del cazzo, accade che sale l'impedenza e quindi finale scalda. Gira, mi controllo la LC saliva e scendeva tranquillo, li fa problemi, però era un po' sotto l'ingresso, mi stacco un cazzo di ponticello, mi metto un ingresso, funziona, mi rimetto il ponticello e invece la LC rimaneva chiuso, vado a fugare, ho trovato una partiglietta, un cazzo di condensatore a 150, imboscato in mezzo a due bobine di quelle in aria, tutto in mezzo, non si vedeva, in corto, non ti dico per trovarlo. Ah, bobine ad aria, quelle praticamente il filo avvolto a spirale. Esatto, ce ne sono due lì in fondo, vicino ai finali, in prossimità del comparatore per l'SVR, no? Ce ne sono due, sono una fianco all'altra, e proprio in mezzo, se tu apri con le bobine, tipo fiore, c'è un condensatore, si chiama C160, la bagazza sua. Quel caso strano, si rompe il componente più nascosto di tutti, è una cosa incredibile, riprendilo. Ehi, sono cotto Marco, tu sei bello fresco, sono cotto, dai, manco nascosto e poi vi saluto. Io sembro fresco ma sono variato, oggi non mi è piaciuta niente la giornata, proprio zero totale, sono ancora con la stampante ferma, ci ho avuto tutto il giorno, nulla, la giovatura. Va bene, vediamo se è rientrato Pomponio. Ma penso che sia attaccante il barattino, la stia portando giù, perché io come ho visto che sono riuscito a farlo ricevere non l'ho provato, cioè meglio, sono andato di importante, visto che usciva un pochino, poi l'ho chiamato, gli ho messo i computi, gli ho portato, gli ho detto qua, provo un'altra stazione, vedi come funziona, come si riceve corretto, così come diceva prima, capito? Quindi lui giustamente lo conosce meglio. E dunque credo che lo stia attaccando da lì, lo porta giù, poi fa da mangiare a fratello, poi tra un pochino magari rientra con l'antenna a base magnetica. Eia, eia. Luca, ma tu stai chiudendo allora? O rimani? No, sono qua in ascolto. Io non starò molto perché sento il bisogno di sdraiare la schiena oggi, proprio. Non... una giornata buttata. Con il 4000 eco ce l'avevo dal 90 dintorni, poi è rimasto fermo 15 anni, non lo usavo, gli avevo dato Antonello. La prima cosa che ha fatto, c'aveva 4 watt, la prima cosa che ha fatto Antonello subito a potenza manetta, e gli mangiava tutta la radio però, tutta la modulazione gli mangiava. E quindi ho detto, Antonello, tu ti devi avere 8, 9 watt, 10 a strozzo e non uccidi di radio. Porca miseria, io prediligo la modulazione più che la potenza. Poi lui delicatomi con i trimmer, una volta sembrava essersi caricando, sai quei giocattolini anni 60 a molla con la chiavetta, tra. Sì, infatti io credo che ci sia preparato il condensatore, perché tutto lì potrebbe aver avuto un piccolo ritorno di potenza, cioè va sparata proprio prima della fine corsa, vabbè, classico di Antonello. E comunque queste radio hanno sempre funzionato così, hanno messo a mano lui, sempre dei gioiellini belli potenti sono usciti. Il discorso è che adesso le radio iniziano ad avere qualche anno, non sono belle fresche, queste fresche. Quando inizi a farle lavorare al limite, magari insomma qualcosina si rompe. È vero, è vero. Ecco perché io non... per esempio questo 3009 contemporaneo è monofinale, è un MOSFET ma è monofinale, cioè anche se gli dai 8 watt, sì, te li dà 8, anche 9, puliti diciamo, però stai ammazzando il finale. Capito, il collo durerà di meno il finale, presumo, a fare lavorare la roba al limite, invece se la fai lavorare tranquilla, cappa. Ah, che meraviglia questo alimentatore, da quando ne ho stracciato la ventola è silenziosissimo. C'era quella ventolina rumorosa che ronzava di brutto, no? C'era il connettore, l'ho tolta. Perché sai cos'è? Questo alimentatore rimaneva gelido, anche in estate è sempre freddo, freddo. E senza ventola rimane freddo lo stesso, cioè, i componenti non scaldano perché quanto sta assorbendo? 2 ampere sta assorbendo seppure. Così si chiude la ventola. Come Fabio? Così dicevo, chiude la ventola. A mio avviso dovete mettere, non ne aveva. Sì, allora questo è uno switching della Proxel, no? Ma anche usando più watt, niente, non scalda, no? Alla fine questa ventola rumorosa è buca. Ho provato a toglierla, ho provato a toccare con cautela componenti un po' interni, staccando la spina ovviamente, dopo averlo usato un po'. Al massimo raggiungo la temperatura corporea, punto. Senza ventola, non scalda. Forse se li assorbi 30 ampere, magari scalda pure, chi lo sa. E l'ho tolta, bello, è silenzioso, sembra un lamellare, sembra. Bene, bene, si stava finendo la ventolina e niente, cioè si trovava le scatole. Io invece ho ripreso un Koenig 5 ampere, quello che stai sentendo in pratica, e ho visto che aveva sofferto di condensatori, trasformatore, non lo so, magari chissà quante volte l'ho scaldato, ma qui non lo so. Insomma saliva un po' di temperatura, il radiatore lì anche lui si scaldava un po' troppo, ho capito, ti cambi tutti i condensatori, ti cambi il trimmer e ti metti 2 pentole, voglio vedere cosa fai, tranquillo. Ho capito, l'alimentatore marca, ho sentito Covid 5 ampere, cos'è? Hai visto anche alimentatori falsi, Covid, Koenig sarà. Sì, un Koenig, che poi detto tra noi, guarda che non conviene prendersi il Covid-19, perché io ne ho parlato con uno, che ne sa un bel, e che sa un po' di storia, capito? No, non conviene prendersi il Covid-19. Ma perché tanto l'altro anno esce il nuovo? Esatto, perché sta per uscire il mese prossimo quella nuova, il Covid-20 che ha più funzioni, capito, più forte, più potente, non soffre le temperature, quello sì per il virus. Il firmware sarà più aggiornato, certo. Luca, c'è ancora? Sì, sono sempre qua. Mi ascolto, sono sempre qua. Dai, falla girare, riprendila, ripigliala, fammi il gioco della calzetta almeno, no? Eccolo, glielo facevano al telefono, appena rispondeva, già con le balle girate, pronto? E poi scappellato, quello la maglia! E poi io sono anche stato in confidenza con Paolo, perché avevamo peccato di tipi che stavamo andando d'accordo per rubargli la pensione, no? E non è giusto, cioè dice, ah guarda, va quell'ora, lo so, qua e là, li avevamo peccati io, dico la Lai, mitico, mi sembra su canali alti, roba del genere. Diciamo, mi sei problemi, questo qua sì, poveraccio, tutto quello che vuoi, maniaco, però cioè, non mi metto ancora in testa che gli ritiro la pensione, no? Dunque per un bel po' di tempo, quando dovevo ritirare la pensione, andavamo anche da solo, andavamo, potevamo riportare e lo riportavamo a casa. E poi gli chiacchieravamo, la madre col bicchiere, eccetera. Sicché un giorno, lui gli aveva detto, ma tu cosa ce n'è che fai così, al baracchino, la calzetta, eccetera. Spiegami cose che ti interessa a te, spiegami cose che ti piace. Non ci crederai mai, Marco. Beh, minimo ti ha detto la pizzona, boh. Cosa ti ha detto? Allora, il suo gusto era quello di, secondo lui, no? Quello che mi ha detto. Sì, gli spogliati, anche non del tutto, no? Però di avere le gambe nude, con i peli, infatti chiedeva sempre, ma ti veloglio, no? E su questi peli praticamente a mettere un po' d'acqua, capito? A lisciarli, con spettinarli, a lisciarli, lui ha detto che la cosa che gli faceva schizzare l'ormone era questa, bagarsi di perversione. Ah, diciamo il suo feticcio, potremmo chiamarlo, sì. Ma meglio quello che altro, quante ne succedono? Poi infatti c'è il confrontato con quello che siete in giro, che secondo dovete girare su internet e ne vedi gente strana, io una volta ho visto questi due che erano vestiti in lattice, io mi ricordo che sono arrivato qui e ho detto, che cazzo è questa cosa? E questi lui col fustino che gli toccava la spalla, non battendo, toccandola così, e mi sentivo, lui faceva, ah, e lei, e sono rimasti, mi ricordo ancora, 12 minuti che si guardavano, che si toccavano questa plastica, stavano volendo come bici. E sappiamo ricordare, no? Magari gli piace più quello, proprio, guarda, ce n'è uno su YouTube che ogni tanto compare in lattice, si estasia, si può dire estasia, sì, da estasiato, si estasia da solo, no? Accarezzandosi là, anche la tuta completa, compreso cappuccio, no? Copre il viso, si bea da solo così. Oh. Aspetta, com'è che si chiama il nome attivo di YouTube? Un tipo strano, con questa boccuccia rosa, russo credo che sia. Sì, alla fine, cioè, Paoletto era, poverino, un principiante. Ecco, tutti che fosse chissà quale maniaco disposto a fare chissà che cosa. Hai capito, Danilo Snoopy, 24, 3364. E i numeri li dava davvero, ma per esempio lo stesso, sì, tutti sono andati a conoscerlo, si trattava bene, la madre ti offriva da bere, da mangiare, cioè, però poi come vedevano importante, questo è Marco Condor, il numero di telefono, questo è tal Itali, Luca, tutti, dava i numeri di tutti. Allora lì mi giravano le balle anch'io, allora mettevo la portante anch'io a Paoletto però è buono. Ma tanto già c'era la nemesi di Paoletto, era Piero. Mamma mia, una volta ci siamo andati vicini, all'ictus, mamma mia. Anche la madre l'aveva detto, dice, era entrata al baracchino a dire, Santo dice, se succede qualcosa lo dico a tutti che sono stati l'IGB a favore mio figlio. Me lo ricordo, guarda che ti fugo su qualche nastro, perché io ho avuto l'inizio di registrare, capito? Io qualcosina ogni giorno devo registrare, adesso ci sono queste cose così pratici, anche il telefonino premi rec che sta andando, però già dal tempo Apple mi trovo le cose, si è preso, ho qualche workshop che registrava, qui in stazione c'era sempre qualche piazza pronta a registrare, o con microfono, o diretto, o con un tre, insomma, c'era sempre qualcosa che stava registrando, non perché ci divertivamo proprio, perché io rispondevo più di qualche volta con la voce di fortunato dalla mia stazione, capito? E di un attimo di poveretto dovrei averne un sacco, ma proprio la madre incazzata, io chiamo i carabinieri, come si sa che un altro è? Ehi, ma c'è il sito, lo sai, sì, con la con parte delle registrazioni? Davvero? Allora, carta e penna. Vegeta. Io ho il CD, Io c'ho lo stereo 8, come quello che aveva lui, il lettore, mi... No, lo scherzavo. Una volta avevo fatto anche una cassetta intitolata Falcon Maiden, iniziava con un pezzo, un intro degli Iron Maiden e poi attaccava lui a urlare. Ci avevo messo anche la foto sua sulla copertina della musicassetta. No, io ho fatto un altro e me lo ricordo ancora, lo dico continuamente, giro, che ho chiamato CDTech Remix 94, era del 94, con tutti gli amici della ruota del 94, le litigate in frequenza, oppure qualcuno che magari ha detto qualche cartoneria, capito? O qualcuno che si è imballato tipo di ricordo, Daniele Sound. Fatto la cassetta, l'avevo fatto tipo 100 copie, l'avevo stato per carceri, però va bene, è una cosa un po' goliardica. C'era anche Falcone, ci sarebbe da pagargli i diritti d'autore, ci sarebbe fatto i soldi tipo Magnotta. Però per la mano, ma tu hai CD, Luca? Cosa? Hai detto tu hai CD? No, ho capito, aspetta un attimino, fanculo, dimmi di fatto. Hai detto che hai il CD? Yes. E cosa c'è questo disco? Tutte le registrazioni, in MP3. Ma vai, questo mi manca, cazzo. Fanne coppia e boh, ci vediamo la pace. Dovrei avere un CD, se ti faccio la coppia. Domani controllo a vedere. Si può, sì. Certo che si può, già sei stato bene. Un po' basso, ma esci bene. Batman. Sì, un po' Batman. Batman non è una cattiva, è microfono. È amplificato. Lo avete fatto da John Batman. Ma quel microfono che ha fatto tutti Giulio? Quel microfono fa male, quello con la ventina. Sono arrivato, Luca. Come? Sono arrivato a Antonello, da giù. Sì, però tra l'altro ne... 1, 2, 3, 4, 5, 6, sta picchiando. Sì, 9, quasi 9, 10. Che stecca per il microfono? Ma non sei a casa tua? No, sono a casa di Giovanna. 2 minuti, stacco il microfono, questo qui e attacco l'altro. Non mi rubo, mi chiedevo la Sigussi. La torta arrivava a segnare 2. 1, 2. Come sta arrivando 2? No, prima. Qualche giorno fa, adesso è 9 e 10. Cazzo, ho cercato di abbassare la potenza per barattino, niente, mi stava uscendo minimo con 13-14 watt, tu usciva quasi con 20. È troppo alto, va bene. Qua la palestra va meglio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dai, tu afflusci, sì. Perfetto, lascia tutto così, Antonello. Lo stronzo, guarda. Ah, che graziato. Lo controllo, sono voi, 960 Radio 8. Mamma mia, si innesca di brutto a parte gli scherzi, Ma quale microfono è questo qua, Tone? E adesso va meglio, uno e tre? E adesso c'è una bella radio pure, una bagaccia tua. Aspetta, ci ho fatto. Arrivata. Da Radio 651. Aspetta. aspetta un po', ciao Giova, ben sentita. C'è Eugenio sotto che sta urlando, è Eugenio. Buonasera a tutti, sto urlando. Buonasera, chi c'è? Allora, ciao Eugenio, Santiago 6 sta arrivando. Allora, ci sono io, Fabio Master, Pomponio, Luca, che ti sentirà probabilmente meglio di me, chi altri c'è qua? Siamo, io purtroppo non lo sento Eugenio, che peccato, trovo quello da preparato, dai. Sì, lo sento, ciao Eugenio, dove sei? A Pordotole si sente. Capaza, già ti ascolto, ci sono problemi. Saluto anche a Giovanna, ciao Giovanna. Ciao caro. Come stai? Tutto bene? Sì, sei stato a posto, è stata una bella serata oggi. Ero sempre rinchiuso. Oggi non sono uscito per niente, solo a portare il cane e basta. E mi sa neanche ieri cos'era? No, ieri è qua la spesa, bugia. Oggi niente. Ieri sono andata a me una bella passeggiata. No, lui è quello che amministra l'agenda. Ho capito. Adesso domani, adesso vediamo domenica. Mi sa che scendiamo a rottura a fare una passeggiata. Se ci aperta la gelateria mangiamo anche il gelato, adesso vediamo. Wow. Tutti in giro con le moto, macchine, tutte cose, biciclette, la piena. Ragazzi, non si compra niente, da oggi la parola Giovanna, vabbè, me la senti, e niente, là, Marco, ripeto. Ehi Eugenio, dai, cioè, alcuni non ti ascoltano qua, che sono in antennino. Dai, se mi ascolti, buon lavoro. Tutti in giro in macchina, come con le moto, bici, macchine, tutto, monopattini, così è. Tutti in giro. Ma chi è la Giovanna? Ho capito bene, Giovanna? Sì, è la sorella di Pomponio. Ma hai sentito, saluta, tutto il rosso. Vabbè ragazzi, va, io vi saluto, intanto molti non mi sentono, io mi accingo a entrare a lavoro e niente, vi faccio una bella nottata, ciao a tutti, ciao! Ciao Eugenio, dai, buon lavoro, buon tutto. No, ha detto tanti saluti a Eugenio, Antonè, anche a Giovanna, perché non vi sente in antenino. Lui sta andando a lavoro, quindi è in macchina. C'è in mezzo, ehi, vabbè, bella mobile. Dai, diciamo. E io che tanto voglio non fare mai. No, va, che ci sembra una volta. Ma non è un piatto. No, infatti, non credo nemmeno io di riuscire. Siamo arrivati alle 2:30, comunque il primato è alle 2:30. Allora Fabio, carta e penna l'hai presa? Stavo parlando un po' prima della portata, già gioco a conti. Ho preso carta, penna e calamaro, va bene? Ehi, a penna e calamaro. Dai, tanto fai l'inchiostro nero, quindi per scrivere va bene. Ok, dimmi tutto. Radio Nuraghe, ripeto, Radio Nuraghe, tutto attaccato, punto altervista.org. Domandano $1,000,000, ti ricordi chiaro che faceva quel rutto? Non mi sente. Sta armeggiando. Ha ha ha. mamma mia. Allora, lei ha aperto il sito? No, è una cura qua adesso, sono di là a caricare, però lo apro, lo guardo, lo furo. Sì, praticamente vedi un'ora che è con delle antenne, tu devi cliccare sull'icona del, mi sta mancato la voce, del registratore a bobine, no? A parte che in alto c'è una bellissima foto dell'autore, e tu vai in basso e vedi delle piccole iconette col numero da 1 a 9, quelle corrispondono ognuna a una cassetta. Certe hanno una qualità discreta, certe pessima. Purtroppo non si può fare di meglio. La bellissima foto dell'autore. Don Marco. Certo, l'autore del sito, no? E come sei uscito con la foto? Come io, Fabio? Sei uscito bene con la foto. No, non sono io, guarda, io sono molto ma molto più brutto. Tu la foto l'ho vista, però la bellissima foto l'abbiamo usata la tua. No, io online foto non ne ho messo mie, niente, no. Online foto non ce ne devono andare, né nei parenti né affini, nulla. Ecco qua, va bene, molto semplice il sito come è fatto, eccetera. Sono in formato MP3, quindi volendo si possono scaricare direttamente anziché playarle e mettere in un CD, in una chiavetta. Si può fare un long play in 33 giri. Adesso vanno anche di moda, stanno tornando di moda. Oh, guarda, pensavo anche di prendere la riproduttrice, lo sai, so che ha dei costi un po' alti e non mi piacciono le caratteristiche, perché io sto lavorando in vinile, cioè io ascolto vinile tutti i giorni. Insomma, bello però, sì, ci frugo, carico e recupero, sono ricordi, mi ricordi, tu, quattro risate, e ce l'aveva con Dino Zuppi, non ce n'era, come Dino Zuppi non ce n'era, vedi? Mamma mia, sì, lo nominavo un po' di volte, ma Danilo, ma forse l'ho conosciuto io, via Bottego, ma per caso era amico di Picconi, Luca, ti sovviene? Anche Luca ha modulato, Luca, vabbè, lì di via Bottego. No, Luca deve essere impegnato, ma adesso si cambia altro, penso che potevo anche CD però. Non ci fa niente. Cioè, quante parolacce, no, non si può mandare, dai. Ma ce l'aveva, è una cosa proprio con questo Danilo, era una cosa sfegatata proprio. Sì, perché ha beccato un paio di volte che stava parlando sopra e poi Danilo, vabbè, il discorso era anche un po' diverso, perché ci sono di quelli che hanno approfittato di Paoletti in qualche modo, perché lui, scusate, lui in qualche modo, insomma, non è che potesse avere molte compagnie, capito? Molta compagnia in qualche modo, perciò magari si cercava di avvicinarsi, io so che ha dato soldi a qualcuno, che gli ha comprato delle cose, che si magari un po' hanno sfruttato, la madre un po' controllava, però vabbè, insomma, lui viaggiava un po' così, poverino, ma che pensi di me per quelli che gli ruotavano così intorno? Ma poi questa cosa non la sapevo della pensione, ma è roba antica dell'epoca o tempi recenti? O grosso modo di che decennio, di che millennio stiamo parlando? Questo che li volevano fregare la pensione, quello sarebbe proprio il colmo. Allora, vediamo un pochino, un'inchiesta, un matrimonio, ancora non erano sposati, perciò parliamo del... sono tornato da Roma, del 94, nel 94. 94 erano il periodo che praticamente stavo per smettere la 27, si era disciolto il gruppetto bene o male, 94-95, poi qui abitavo già qua, avevo una misera boomerang sul terrazzo, che era pur sempre una boomerang full size, però avevo il cavo sottile, avevo il cavo RG58, mi dava una perdita eccezionale, e quindi lì alla fine mi ha demoralizzato la cosa e ho lasciato tutto. Avevo ripreso nel 2010. C'è una bella ruota nel 94 per quanto mi riguarda, se non altro per i miei amici. Posso citare Andrea Giampo, Piva JG, Paola, Daniela, Vincenzo, Stefano, Franco, Franco Sacco, Tesoro, Daniel Sound, Fabiano Andrate, chi c'era cosa con noi, Davide Tepi, dal centro storico, chi altro c'era? Un po' Marcello, mi ricordo Marcello, Liliana, Antonio di Serva, era che fa con noi, eravamo un bel gruppo, poi ci divertivamo abbastanza, poi vabbè, chi va chi viene, i telefonini, i casini rari, le litigate, poi ci siamo separati, Silvia del Monte, con fratello, poi c'era Silvietta Lampadina, Silvia Montella, Silvia Lampadina, un sacco di gente in quel periodo lì. E poi vabbè, Falcone, Pompogno, i soliti della frequenza, solo che dire Falcone insieme a Pompogno viene male. Guarda, di quelli nominati non ne conosco uno. Pompogno, però tutti, no, proprio. Era passata la passione, diciamo. E poi tutti, c'erano molte ruote, molti canali ancora, poi è uscito il telefonino, ha cominciato il declino della 27, poi con i computer un po' più performanti, multimediali, è stata la, e internet anche a basso costo, è stata la, il colpo di grazia, diciamo, dai. Esatto, io ricordo che a Roma stavo cercando domenica in giro, Porta Cortese, stavo cercando un apparecchio un po' grosso, lo stavo cercando come quello che aveva Antonello, l'avevo anche trovato, anche relativamente a poco, anche perché loro se ne stavano liberando di questa roba, perché appunto quei telefonini era più il telefonino, capito? E dice, ma gli artisti ne stavano richiedendo una cosa e l'altra, e avevo trovato un 680 a 400.000 lire, che da noi veniva scambiato per un paio di milioni. Poi ho preso, provato a casa, guardato, riguardato, poi ho notato che gli mancava la targhetta con numero seriale. Ho detto, questo deve essere roba rubata, tipo che io me lo porto in nave per portarlo a Sassari e ci ha avuto un limite. No. Allora mi chiedo, sono andato, sono tornato da lui, mi senti, ma non te lo stava chiedendo anche un altro tipo? Sì, quello là, sono andato da un'altra bancarella, dietro, gli ho dato, dammi 500.000 lire e te lo mollo, e così ho fatto. Ma loro già non ne stavano più usando, cioè c'era solo qualcuno sui canali, abbia dato, nel 94. Ehi, anch'io l'ho avuto il 140, però non mi ha ispirato più di tanto, già l'assenza dello squelch in AM che uso molto, ce l'ho sempre lo squelch in AM, un filo, ma ce l'ho. Poi vabbè, io non uscivo bene di radio, non rende come con la mia voce là, quell'apparecchio lì, con le mie 60, non... Un giorno la mamma l'ha visto, no? Dice, ah, che brutto questo apparecchio, è tutto grigio, non c'è la cromatura, poi c'è questo Smith con la lucina da morto, così l'ha descritto. No, la mamma piace non sapere i baracchini cromati. E vabbè. E infatti l'ho tenuto, quanto sarà, un annetto, o giù di lì, poi l'avevo dato. Un anno e mezzo forse anche due, no, un anno e mezzo. Ah, io avevo benissimo i ricordi. Era l'apparato più bellino che aveva a tiro, cioè Antonello. Pensa che quando era a casa sua, anche perché io stavo con Giovanna, perciò stavamo un po' qua, un po' là, un po' da lui, un po' giù alla mamma, un po' in giro, però spesso arrivavamo anche da lui, da Antonello. E lui diceva, dai usalo, dai prendi qua e là. Io mi ricordavo le frequenze di memoria, magari me le ricordo anche adesso, cioè tipo, cosa ne so, che il canale 40 sia 27405, che il 23 è il 255, mi ricordo a volte il 14, il 20, tutte le memoria, pure quel canale magari delle bande su e giù. Però Giovanna insomma si trovava male. Io comunque per timore reverenziale, perché era gioia dell'Antonello, meno toccavo meglio era per me. Eppure un giorno Antonello ha preso, l'ha girato dentro una felpa o cosa del genere, ha detto guarda, come andiamo allo zaino, te lo porti a casa, così ci giochi un po'. Io scioccato, non volevo l'ora di riportartelo, per me era una posizione parecchio serottata. Poi sarebbe praticamente un 140 con l'aggiunta dei 50 MHz, che però sì, si aveva watt, per esempio la M c'avevi già 50 watt, io avevo la versione non tirata e sempre tranquilla, 40 watt massimo la M, forse toccava i 50 modulati, perché se la modifica lo può portare a 100, ma sempre lo stai ammazzando poi dei finali. Però non, poi vabbè, d'accordo che potevi anche memorizzare i canali sulle memorie, no? Almeno 20, non mi ricordo quante ne aveva, proprio il selettore non più nuovissimo, andavi avanti di canale e andava indietro, no? Non era preciso, allora per il resto sì, funzionava, in banda laterale un bijou, in FM un bijou, quello che vuoi. Vabbè. Anche in AM, diciamo, già usciva discretamente, che le mie corde vocali non sono un granché con quell'apparato. Tu ho trovato divertente, piuttosto serio rispetto a tutto quello che avevo intorno, se non altro, è una cosa molto preciso, cioè tutto quello che faceva era fatto bene, a te che per esempio quello che era Vallello andava su 100 watt, Marco, andava su 100 watt, ci andava bene, con picchi fino a 120, non ricordo benissimo, bastava a girare, bastava a spingere anche, perché c'era un carrellino per la potenza, c'era un... scusa, questo sono di quella così lì, c'era un piccolo slide sulla destra, se non sbaglio, in alto, per potevi regolarti la potenza. Perfetto, perfetto, quello che diceva il suo vastro, il suo rostro era quello che dicevano gli apparecchi fuori, molto preciso, con una radio per la sonda, abbastanza potente, senza soffrire troppo, per me era un apparecchio, proprio bello, vabbè che ho avuto pochi in mano come quelli, però quello lì, vabbè, sarà la solita cosa della nostalgia, del fatto che, quello mi è rimasto un po' nel cuore. Un giorno o l'altro qualcuno che lo sta vendendo, anche a lei, non ho messo bene, quindi si è recuperato il prestigio. Adesso non mi ricordo bene, dunque in AM erano sì sui 40-50 watt, naturalmente in SSB dovevano essere un centinaio, in FM non so se 70, no? Non me lo ricordo manco più, pensa quanto l'ho considerato quell'apparato. Allora, io di quell'apparato non rimpiango né i canali né i watt, l'unica cosa che rimpiango è lo smitter, cioè con quello potevo dare controlli veritieri, abbastanza veritieri, con questi baracchini è uno scandalo, è una cosa ridicola. Infatti questo smitter l'ho dovuto interpretare paragonandolo al K, capito? Perché io qua avevo segnali bassi e bassi, ho detto ma com'è possibile che uno che mi arriva a Santiago 7 arriva a Santiago 7 sul K, qua mi segna Santiago 3, praticamente il Santiago 3 di questo apparato corrispondeva al 7 del K, per esempio Santiago 5 del K qua segnerebbe 1, Santiago 1, quindi io quando do i controlli non dico quello di che c'è lo strumento, dico quello che avrebbe segnato il K. Mi sono fatto tutta la scaletta a mente, no? Il 9 l'avevo tarato, il 9 avevo tarato come il K, però a quest'ora ci sarà starato sicuramente. Poi segnali oltre il 9 c'è poco spazio, mamma mia, è una cosa millimetrica, c'è dal 9,20 al 25 al 30 è questione di un millimetro in totale. Vabbè, quindi lo smitter era un bijou, tutto il resto ci ho rinunciato volentieri. Sì, ricordo lo smitter molto preciso. Vabbè, pensa che qualche volta li abbassavo anche nell'F game, perché da quella posizione Antonello con la Mantova, con quell'apparecchio lì, cioè, tanti segnaloni, veramente riceveva l'impossibile. E poi la selettività, era molto selettivo. E mi dispiace, ho avuto anche stazioni belline, molto carine, costose, che adesso costano un pacco di quattrini, tipo la Saturnecco, però io un baracchino lo vedo da quello, cioè per me puoi anche uscire un po' barattolo, non è giusto, magari ti faccio qualcosina, ti cambio il microfono, ci strippo una settimana, però poi alla fine magari riesco a avere una radio decente, abbastanza forte, e quello si può toccare, ma quando un apparecchio non è selettivo, mi dispiace, non lo so, per me è un rifiuto. Eia. Certo che come splatter comunque, se adesso dipende cosa intendi, ad esempio io nell'anno di grazia 80, che anno poteva essere, porca miseria, 86, 88, più 86, avevo preso il multimode 3, nuovo, no, io, mamma l'aveva preso, io avevo 14 anni, cosa, 15 anni cosa potevo comprare. Ma prendeva tanti di quel battimento, di quei colpi che era un incubo, con le persone vicine non potevo volare, cioè quando avevi le persone vicine su altri canali era un incubo. Poi l'avevo dato a Antonello, avevo preso un Excalibur Samurai, che praticamente era come una specie di Pluto cromato, no? Lì un abisso, lì molto più, non prendevo il battimento dell'altro, non prendevi splatter che come il multimode 3, proprio un abisso c'era. Infatti ho sempre apprezzato quel tipo di apparati e tuttora c'è un apparato simile, senza frequenzimetro, vabbè. Ma chi ci è rimasto qua? Che so, Giovanna, Antonello, Luca? Qualcuno entrasse, andava a parlare, invece niente, Giovanna sarà appena rientrata e tra bambini, sistema delle cose eccetera, magari sono pronto un altro, Antonello sarà lì a fare la conoscenza da Giovanna, una cosa all'altra. E Luca ha dato per radio qualche spezzone di 23, che si è fermato. Luca, ti sei addormentato? E magari abbiamo fatto ping pong, un po' si è stancato, in effetti dovevamo far girare di più la ruota, ma sai, no, una parola tira l'altra. Poi non so se è rimasto qualcuno su questo canale, attento canale 10, attento orecchio ascoltoso. Ma che, ho perso anche la condizione del tempo, vediamo che ora è. Vabbè, vedo una lancetta, non vedo l'altra. 11 meno 7 minuti, grosso modo, ci siamo. Sì. Ho perso una lancetta. Penso di sì. Io ho gli apparati a fianco, praticamente sono le 10 e 10, perché sono tutti e due sui canali 10. Sì, dovrebbe, si sono sovrapposte le lancette, perché c'è quella di seconda che truba. Bene, quasi quasi. Che giornata dal Menga, guarda, proprio una giornata dal Menga. Vabbè, colpa mia. Vedremo di rifarmi domani quando capita. E cosa ho combinato oggi? Nulla. Esatto, nulla. Non sono svegliato troppo presto per gli orari in cui vado a dormire, no? Poi vabbè, dalle 4 alle 5 un sonnellino, breve, ma non mi corica manco il pelo. Vediamo se stanotte mi posso rifare. E anche visto che chiudo, me ne vado a letto, perché un paio di notti che ho dormito poco, oggi ho avuto una bella giornatina anch'io pesante, perché ero un po' stanco. Ho fatto tanto, mi è andato a culo, nel senso che sono riuscito a chiudere un paio di cose, però comunque si poteva fare di più. E domani sono un po' impegnatino, perché domani devo fare una puntatina Alfa Lima, a vedere la casa lì, cosa ne è rimasto, perché non ci passiamo da un po'. Così faccio anche uscire un po' mamma, sale eterno, insomma, è chiusa in casa questa donna da febbraio, è uscita una volta settimana scorsa per un paio d'ore e si è anche stancata. Le faccio fare un giro così un po' in macchina, un po' d'alghero, e vediamo un pochino. Che dici? Chiudiamo, così almeno quelli che ascoltano possono occupare il canale. Sì, vabbè, verso quest'ora non so chi entri. Ehi, mamma, lo stesso, già usciva poco prima. Sono due mesi di clausura, poi lì costa TV 20 ore al giorno, mamma mia, 20 ore di TV, c'è l'altro con questo volume alto che manco ne segue, mamma mia, mi prende la testa, mi salgono i nervi. Adesso vediamo di rifarci, se ci rifaremo pure. Bene, dai, ci sentiamo Fabio, buona serata, buon tutto. Ciao Antonello e Giovanna, se siete ancora all'ascolto. Luca, tutti quanti, ritentevi salutati. Ciao, bello. Sì, ma bello, guarda, non ne posso più. Ciao, tesoro. Bello il possibile, ciao Tino, anche tu. Ciao, buonasera a tutti, eh. Ciao, sì, ciao. Credo che non entrasse nessuno più ormai a quest'ora, vieni. Io mi ritiro un buon ordine, adesso vediamo cosa fare per cena pure. Mi attacco alla televisione. Ok, ciao T, sei in compagnia di Fabio, non so se rimane, Giovanna c'è, poi c'era anche Luca, comunque, Luca del Monte, dai. Ciao T, buona serata con tutto, QRT esecutivo. Ciao Marco. Dai, entra dopo cena tanto. Ma io ho finito adesso di cenare. Giusto così due cosette, poi un digestivo, e mi sono messo qua la radio. Ciao Giovanna. Ciao. Avete parlato in due, Tino, lo senti Fabio Master? Non lo so, credo di no comunque. Prova Fabio, un'altra volta l'ho sentito, prova Fabio. A quanto più non se ne ascolti Fabio? Sì, così, diciamo ni. Ti ho ascoltato però non nelle migliori condizioni. Guarda così altro un po' la radio, che arrivo meglio. Sì, in mezzo a problemi, ma riesco a tenerti fuori, dai. Salutone anche a te. Scappa, va bene. Cosa? Non fare la boccina, non fare la boccina, mi. Però mi prende in giro, mi. La faccia. Amore tuo, amore tuo, faccio grande, giuro. Cucino, che bombino tesoro. Io sto facendo un po' di più però. Amore, come va adesso? Non so, forse l'ha detto. Come va? Se mi senti, non proseguo. Giova, ci sentiamo anche domani magari. Tanto passerò l'Antonello e chissà, novità, chissà, non per radio, non lo so, però vado a fare. Allora, vi saluto, e anch'io qua, lo rendo esecutivo, questo è QLT. Ciao a tutti, guapo. Ciao, buonanotte. E oggi Antonello non è entrato, Giova. Ho detto, oggi Antonello non è entrato. Qui a casa con me, sto facendo la babysitter a Giampiero. Ah, cappa. Andare. Buon ragazzi, sono entrato giusto a salutarvi. Che devo fare delle cose al PC e poi vado a nanna anche io, che la giornata è stata pesante oggi. Ti saluto Giovanni, un bacione. Ciao. Ciao anche. Chi c'è? Luca o non so. Chi è arrivato? Ciao, grazie, bacione per te, buonanotte. Tutti la base ci potete sapere, al più riporte la situazione. Va bene, dai. Alle prossime, ciao.